in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra lettura dei giornali. Vediamo come i temi ovviamente cruciali, più importanti, sono ripresi sui quotidiani di oggi. Cominciamo col dirvi che troverete molte ricostruzioni delle vicende di Copenaghen, ma che ovviamente non ci può essere traccia nei giornali degli ultimi eventi succedutisi nella notte, quindi con anche l'uccisione di un uomo che ha aggredito, che ha sparato a dei poliziotti. Lo avete sentito nel giornale radio, vi daremo ulteriori aggiornamenti naturalmente alle 8 al termine di questa rassegna stampa. I quotidiani principali ovviamente riportano la notizia degli spari a Copenaghen in grande evidenza, così ad esempio Repubblica, Danimarca, spari all'autore delle vignette, e poi associano spesso, questo è una cosa che troverete su molti quotidiani quest'oggi, le vicende libiche, la preoccupazione anche per le vicende libiche. Libia, l'IS minaccia il crociato Gentiloni, virgolettato, perché così è stata la definizione data dalla radio del Califfato. Torna l'incubo Charlie Hebdo, il disegnatore è illeso ma è stato ucciso un agente, riferisce Repubblica, assalta una sinagoga, terrore a Copenaghen. Tutto questo, come vi dicevo, in realtà poi risulta da aggiornare con gli sviluppi avvenuti nella notte. Sempre su Repubblica, un altro fronte particolarmente caldo, particolarmente delicato, l'Ucraina. Ansia per la tregua ucraina a Donetsk è un inferno, così il titolo della corrispondenza di Bernardo Valli dall'Ucraina sulla prima pagina di Repubblica di questa mattina. Da mezzanotte, appunto da poche ore, è scattata la tregua del cosiddetto accordo di Minsk 2, così è stato chiamato. C'è da vedere quanto questa tregua sarà robusta, sarà duratura. Naturalmente tutti ci auguriamo che abbia una capacità di tenuta migliore di quella degli accordi che l'hanno preceduta. Le provocazioni politiche, le questioni politiche dopo la bagarre e le scene che abbiamo visto negli ultimi giorni di questa settimana in Parlamento, questa volta sono i 5 Stelle a dare il titolo sulla prima pagina sempre di Repubblica. I 5 Stelle dicono dimettiamoci tutti. Riferisce già la prima pagina di Repubblica. In un'aula semivuota sono stati approvati gli emendamenti sulle riforme costituzionali, l'ok finale è atteso ai primi di marzo, ma appunto Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle dice: siamo pronti a dimetterci, così da far cadere il Parlamento. Una notizia che occhieggia su tutte le prime pagine: il presidente, Leo, presidente della Repubblica, Mattarella, che si è recato nella sua Palermo, ma con un volo di linea, con un volo all'Italia e non con l'aereo di Stato. Il Messaggero dà il suo titolo principale alla questione libica. Libia, pronti 5.000 uomini, e annuncia già in prima pagina un'intervista al ministro della difesa Pinotti, che dice, così viene riassunto nel titolo di prima pagina, il grande titolo di prima pagina che occupa praticamente tutta la pagina del Messaggero: siamo disposti a guidare una missione per fermare il califfato. L'ISIS avanza verso Tripoli e minaccia l'Italia, è nostra nemica, il virgolettato appunto, Gentiloni un crociato. E poi spazio a centropagina per una foto titolo ugualmente importanti: terrore jihadista sciocca Copenaghen, spari contro un autore di vignette. Come vedremo poi, come abbiamo sentito nel corso dell'ultimo giornale radio, la situazione si è ulteriormente ingarbugliata rispetto a queste prime indicazioni. Sempre sui giornali, naturalmente, spazio alla scomparsa di Michele Ferrero. Michele Ferrero viene chiamato da più quotidiani questa mattina il papà della Nutella. Aveva 89 anni, era stato proprio appunto l'inventore e il creatore di questo gruppo importantissimo, diffuso in tutto il mondo e soprattutto esportatore di prodotti famosissimi come appunto la Nutella, ma anche viene ricordato da altri giornali come altri vengono ricordati altri prodotti di successo, come ad esempio il Mon Cheri, un altro prodotto che ha una storia molto particolare. Questo sulla prima pagina del Messaggero. Sul Su invece il Corriere della Sera il titolo principale è dedicato a Copenaghen, nuovo attacco nel cuore dell'Europa. Copenaghen, un morto al convegno sulle vignette, spari alla sinagoga, l'ISIS che minaccia Gentiloni. Quindi le vicende libiche vengono in qualche modo riassunte e date insieme alla questione dell'attentato degli spari avvenuti a Copenaghen. Anche per il Corriere della Sera un rimando dalla prima pagina per la scomparsa di Michele Ferrero, il papà della Nutella, così la definizione appunto che viene ripresa un po' da quasi tutti i giornali. Renzi sulle riforme avanti anche da soli, sono state le dichiarazioni poi di ieri al TG1 del Presidente del Consiglio, dopo appunto le fratture e gli scontri anche in Parlamento tra i vari schieramenti. Sul Corriere della Sera, richiamato in prima pagina, magari ci torneremo nel corso di questa rassegna stampa, un intervista anche a Mario Monti, l'ex presidente del Consiglio, senatore a vita, che ritorna sulle vicende che hanno caratterizzato la sua esperienza di governo e la sua, possiamo dire ora, non felice esperienza politica, nel senso che appunto Scelta Civica ha avuto una storia politica abbastanza breve e travagliata. Il Giorno, nuovo attacco alla libertà, Copenaghen, assalto islamico al dibattito sulla satira, un morto e tre feriti, l'Italia nel mirino dell'ISIS, che ha detto appunto colpiremo il governo dei crociati. Di solito la tradizione impone che alla mattina successiva al Festival di Sanremo ci siano richiami, rimandi dalla prima pagina. Questa volta le vicende di cronaca appunto di Copenaghen, le vicende libiche evidentemente hanno chiamato molti dei colleghi a fare scelte diverse, non così il Giorno, che trova comunque uno spazio con una grande foto per ricordare la vittoria del trio del volo al Festival di Sanremo ieri sera, anzi direi questa notte, poche ore fa, il volo su Sanremo. Anche per il Giorno l'addio al signor Nutella, addio a un mito, Michele Ferrero era l'uomo più ricco d'Italia. Questa un'ulteriore informazione che viene data dal Giorno nella sua prima pagina. E poi vediamo il Secolo XIX, che ci titola con agguato e un morto per le vignette danesi, terrorista in fuga, voleva un altro Charlie Hebdo. E sempre sul Secolo XIX c'è una sentenza interessante: il giudice dà ragione a Uber a Genova, i tassisti minacciano guerra. Qui forse il termine, viste le cose che stanno succedendo in Ucraina e in Libia, magari va un pochino registrato, va un pochino precisato, ma insomma opposizione dura. Preciso soltanto, magari ci torniamo nella parte successiva di questa rassegna stampa, preciso soltanto che la decisione è stata presa da un giudice di pace, quindi come tale insomma deve essere poi in qualche modo confermata dai gradi successivi di giudizio. Non sempre appunto le decisioni dei giudici di pace vengono confermate, specialmente in terreni delicati come questo, dai gradi successivi di giudizio. Il Sole 24 Ore, infine, in quest'ultimo minuto prima di ascoltare le previsioni meteorologiche, Sole 24 Ore decide di dare il suo titolo principale alle questioni greche, perché oltre alle questioni appunto ucraine, oltre a quello che è successo a Copenaghen e alla Libia, si apre domani una settimana particolarmente delicata anche per l'Eurozona, per la nostra moneta, per l'economia di tutta Europa. E il titolo del Sole 24 Ore è proprio dedicato a questo: Atene, ultimo round per l'intesa sul debito, a Bruxelles negoziato decisivo nel weekend in vista dell'Eurogruppo di domani. Si tratta su avanzo primario e bond legati alla crescita. Il riferimento è appunto alle iniziative su cui si cerca di accordarsi tra il governo, il neo governo greco guidato come sapete da Tsipras, e l'Eurogruppo, trovando un punto di incontro che consenta, come poi riassume appunto Beda Romano nelle pagine interne, a Tsipras di salvare in qualche modo la faccia dal punto di vista politico, ma a Bruxelles di salvare i trattati sull'economia. in primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Vediamo come i quotidiani in questa mattina riferiscono delle vicende più importanti della giornata e della settimana, ma naturalmente, come vi dicevo, lo spazio principale, nei titoli principali sono tutti incentrati sulla sparatoria di Copenaghen, sulle vicende libiche, sull'attacco appunto avvenuto nella caffetteria di Copenaghen dove era in corso questo convegno. Non ci sono aggiornamenti utili, vi rimando poi naturalmente alle 8 al giornale radio, vi daremo gli ulteriori sviluppi della situazione. Non così possono fare naturalmente i quotidiani che hanno chiuso nella nottata. Vi riferivo prima di una intervista al ministro Pinotti su un'altra delle vicende che vengono richiamate con grande evidenza da tutte le prime pagine e spiegate con molte pagine interne dai quotidiani di oggi, e faccio riferimento alle questioni della Libia, all'avanzata dell'ISIS, del califfato dell'ISIS in Libia, e anche alle minacce al nostro ministro Gentiloni, che ha detto siamo pronti a combattere al fianco naturalmente di una coalizione dell'ONU. Allora, sul tema il Messaggero ha una intervista al nostro ministro della difesa Roberta Pinotti. Vi do qualche indicazione nelle frasi riportate in questa intervista realizzata da Marco Ventura. Missione ONU come in Iraq, dice il ministro, l'Italia guiderà la coalizione. Il ministro dice anche che siamo pronti a inviare almeno 5.000 uomini contro il califfato, insieme a noi Francia, Inghilterra, Germania e i paesi del Nord Africa. L'Italia, così l'esordio appunto della dichiarazione del nostro ministro, è pronta a guidare in Libia una coalizione di paesi dell'area, europei e dell'Africa del Nord, per fermare l'avanzata del califfato che è arrivato a 350 chilometri dalle nostre coste. Se in Afghanistan abbiamo mandato fino a 5.000 uomini, in un paese come la Libia, che ci riguarda molto più da vicino e in cui il rischio di deterioramento è molto più preoccupante per l'Italia, la nostra missione può essere significativa e impegnativa anche numericamente. Il ministro pesa le parole, riferisce appunto Ventura sul Messaggero, ne discutiamo da mesi, ma ora l'intervento è diventato urgente. Qualche chiarimento nell'intervista, che nelle domande che vengono poste al ministro: ci saranno truppe di terra? La risposta è: dipenderà dello scenario. Si dovranno anestetizzare realtà dove ci sono infiltrazioni terroristiche e fare peacekeeping nel resto del territorio. Quindi quello che lascia intendere il ministro Pinotti è una alternanza di interventi aerei, ma anche non esclude l'utilizzo delle truppe di terra. Più oltre, l'opposizione ha criticato questi annunci che sono stati fatti fuori dal Parlamento. Dice il ministro, qui stiamo parlando di ipotesi, non c'è una decisione. Il governo italiano lancia un monito alla comunità internazionale. Inoltre, tutti i segnali in Parlamento sono andati finora nel senso di una preoccupazione condivisa. Rassicuro tutti, ogni decisione e passaggio verrà fatto in Parlamento giovedì. Il ministro Gentiloni fornirà informazioni e valutazioni. C'è spazio per la diplomazia, qui la risposta è diciamo prudente, perché si dice l'avanzata del califfato è tumultuosa e preoccupante non tanto a Derna, dove da tempo il jihadismo è forte, ma piuttosto a Sirte e a Tripoli, dopo l'attentato all'hotel Corinzia che ospita le delegazioni internazionali. Quali paesi faranno parte della coalizione? Si possono ipotizzare quelli dell'area, dice il ministro Pinotti, ma non deve essere una coalizione dall'aspetto minaccioso verso i libici. Unico interesse è la pace. In Europa sicuramente l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna, Malta e altri che aderiranno. Gli Stati Uniti saranno coinvolti nella strategia, quanto alla partecipazione diretta si vedrà. I tempi, chiedono al ministro, il rischio è imminente, non si può aspettare oltre. L'Italia ha esigenze di difesa nazionale, di non avere il califfato che ci governa di fronte, ma tutto questo viene poi precisato dalla parte successiva della risposta, ma vogliamo coordinarci con altri in un sistema di legalità internazionale. Una domanda importante: quanto è pericoloso militarmente il califfato? Un paio di mesi fa, spiega il ministro Pinotti, avevamo stimato circa 25.000 combattenti, con una capacità di aumentare di 1.000-1.500 al mese. Oggi potrebbero essere 30.000 o anche di più. Ci sono stati anche momenti di ombra sul destino degli armamenti di Gheddafi, perciò dobbiamo stare attenti alle armi che possono avere. Lampedusa è un bersaglio? Tra le ultime domande, abbiamo un sistema di difesa anche perché le nostre coste più esposte siano salvaguardate. E poi i terroristi possono arrivare coi barconi? È una possibilità che non possiamo escludere. Questo sul Messaggero, l'intervista al Ministro della Difesa Roberta Pinotti sulla situazione libica e sulla determinazione italiana, del governo italiano, a intervenire in Libia appunto per fermare l'avanzata delle forze del califfato. Restiamo sulla Libia, tornando sul Sole 24 Ore, perché come spiega appunto, come risponde il ministro Pinotti, la coalizione che si dovrà costituire deve comprendere i paesi arabi, non deve essere una cosa antilibica. Su questo c'è un contributo oggi sul Sole 24 Ore di Karim Amual, la cordata araba contro il califfato. Karim Amual, conoscitrice da vicino delle vicende appunto del Nord Africa, che spiega un'iniziativa italiana in questa direzione non fa che corrispondere a quello che i paesi arabi si stanno già preparando a condividere. Quindi l'aspetto di crociata che vogliono far passare, di scontro di religioni che vogliono far, chiaramente vogliono veicolare i terroristi che fanno riferimento all'ISIS, è abbastanza mal posto, come spiega Karim Amual. Dice: la consapevolezza di intervenire contro una minaccia terroristica attiva è condivisa anche nel mondo arabo, che questa volta può essere un importante alleato contro l'ISIS. Perché per questi paesi, cioè per i paesi arabi, specialmente quelli del Nord Africa, la minaccia terroristica è diretta e all'interno spesso dei propri stati. Solo in questa settimana in Tunisia sono state arrestate 20 persone, un gruppo di seguaci del califfato islamico, pronti ad agire. In Marocco, mai come in questi mesi, si sono viste nuove forze militari con tanto di divisa e armi alla mano a girare per il paese. La cronaca dei telegiornali arabi pullula di continui arresti di seguaci dell'ISIS pronti ad agire. Quindi in questo senso il coinvolgimento degli stati arabi che hanno questo problema proprio in casa, non alle porte di casa come è per noi, è cruciale per anche la riuscita di una operazione di peacekeeping e di contrasto all'ISIS, così come viene annunciata e descritta sul Messaggero questa mattina dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti. La riflessione è sul Sole 24 Ore, firmata da Karim Amual. Restiamo sul Sole 24 Ore per tornare invece alla questione della Grecia. Un weekend per salvare la Grecia, negoziati febbrili tra il governo greco e i creditori in vista dell'Eurogruppo di domani. Domani giornata, potremmo dirlo, decisiva per le, appunto, trovare un'intesa, un difficile equilibrio tra le richieste europee e quelle elleniche. Da oltre 2 settimane, scrive Beda Romano, il braccio di ferro tra Atene e Bruxelles sta tenendo banco. Il nuovo governo greco non vuole più sottostare a un memorandum di aggiustamento economico negoziato con i suoi creditori internazionali, ma nel contempo ha bisogno velocemente di denaro fresco, mentre si avvicinano in primavera impegnativi rimborsi finanziari. Tutto questo, appunto, le spine per Atene e per l'Europa. I paesi della zona euro sono pronti a offrire nuove linee di credito, ma chiedono un quadro giuridico di riferimento. Insomma, lo strappo ai patti, alle intese decise in precedenza, non può consumarsi in qualche modo gratis, verrebbe da dire, parlando appunto di questioni economiche. Questo sul Sole 24 Ore di questa mattina, dove vi voglio segnalare un'ultima notizia che trovate anche su altri quotidiani naturalmente, il decreto sui giochi che dovrebbe essere esaminato tra le altre cose nel Consiglio dei Ministri del 20 di febbraio, un Consiglio dei Ministri che si annuncia particolarmente denso, tassa della fortuna alzata dal 6 all'8% e slot machine ridotte di un terzo. Il provvedimento che è atteso appunto all'esame del Consiglio dei Ministri venerdì prevede tra le altre cose appunto l'innalzamento di questa imposta sulle vincite e poi dei limiti all'installazione di slot machine, limiti che però dovrebbero scattare dal 2017. Ci dovrebbe essere la possibilità di collocare una slot machine solo ogni 7 metri quadrati e non senza superare mai le 6 macchine per locale. Questo è il riferimento dal Sole 24 Ore di oggi. Il tema viene ampiamente richiamato già in prima pagina da Avvenire, che ha sempre condotto una battaglia decisa contro la ludopatia, cioè l'eccesso appunto di dipendenza dal gioco. Nella prima pagina, naturalmente dopo il titolo principale dedicato alle vicende danesi e libiche contemporaneamente, sangue a Copenaghen e minacce all'Italia, questo è il titolo principale di Avvenire, ma dicevo nella prima pagina, nella parte centrale, scommesse, giro di vite per slot e pubblicità TV, il pacchetto allo studio del governo, ma la partenza è prevista soltanto nel 2017. All'interno appunto si spiega che ci sarà anche un divieto, si pensa anche a un divieto di pubblicità per i giochi dalle 16 alle 19, questo ovviamente per proteggere le fasce più esposte, le fasce particolarmente dei minori che potrebbero essere più esposte alle lusinghe pubblicitarie di questi giochi. E poi anche il fondo, sì, nella bozza si comprende anche uno stanziamento di 250 milioni proprio per sostenere le terapie contro le patologie da gioco. Critico appunto il giornale Avvenire questa mattina sul fatto che si parta soltanto dal 2017. Ci torneremo magari con qualche ulteriore dettaglio nell'ultima parte della rassegna stampa. E adesso, no, mi dicono che abbiamo ancora qualche minuto, qualche momento. Allora, restiamo su questa vicenda delle slot. Tra l'altro, sempre su Avvenire, Marco Iasevoli che firma appunto un ampio servizio su questa bozza, una bozza importante da dirlo, ci dice anche che ci saranno norme più blande per radio e internet. E ai concessionari, però, ci saranno oneri perché dovranno finanziare le campagne contro il gioco d'azzardo. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti all'ultima parte, all'ultima tranche di questa nostra rassegna stampa. Grazie a Filippo Auregi, questa mattina in regia ci ha guidato anche attraverso le incertezze che riguardavano il collegamento con la viabilità, che poi appunto si è concluso felicemente, è andato felicemente in onda. La stampa dedica ampio spazio questa mattina alla scomparsa di Michele Ferrero, non nel senso che gli altri giornali non diano ampi spazi nelle loro pagine interne, ma nel senso che la stampa decide proprio di dare una grande foto e uno spazio notevole, considerevole in prima pagina. Poi, naturalmente, il titolo principale è dedicato all'agguato a Copenaghen, agguato al convegno sull'Islam. Volevano un altro Charlie Hebdo. Sempre nella titolazione si ritrovano anche gli elementi delle vicende libiche, Libia, italiani pronti alla fuga, l'ISIS contro il crociato Gentiloni. Ma vi parlo di Ferrero perché viene riproposta un'intervista del direttore Mario Calabresi fatta all'85esimo compleanno di Michele Ferrero, scomparso ieri all'età di 89. Viene richiamato in prima pagina, questa intervista comincia proprio in prima pagina della stampa con questo titolo: Addio a Ferrero, il mio segreto, era una delle cose che aveva detto appunto il direttore, pensare diverso, e così dice appunto, pensare sempre diverso dagli altri, fare diverso, avere fede, tenere duro e mettere ogni giorno al centro la Valeria. Valeria è la padrona di tutto, e l'amministratore delegato è colei che può decidere del tuo successo o della tua fine, quella che devi rispettare, non devi mai tradire, ma capire. Lo guardo stupito, ripeto la domanda: mi scusi signor Michele, ma chi è Valeria? La Valeria è la mamma che fa la spesa, la nonna, la zia, il consumatore che decide cosa si compra ogni giorno. È lei che decide che Walmart sia il più grande supermercato del mondo, che decreta il successo di un'idea o di un prodotto. Se un giorno cambia idea, non viene più da te e non ti compra più, allora sei rovinato, senza preavviso. Questo è il richiamo. Poi nelle pagine interne di questa, nelle pagine seconda e terza della Stampa oggi, questa lunga intervista appunto di Calabresi, solo qualche passaggio rapidissimo. Ad esempio è molto interessante come la testardaggine di questo industriale, di questo imprenditore, lo abbia portato a lanciare un prodotto di grandissimo successo come appunto i cioccolatini Mon Cheri, partendo dalla Germania. Allora lì bisogna anche capire che si trattava di un italiano che andava a vendere cioccolatini in Germania nella dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, quindi la condizione non era quella ideale, e il pensare diverso a cui si fa riferimento anche nel titolo dell'intervista, in quel caso fu, come spiegava lo stesso Michele Ferrero, non vendere più cioccolatini in scatola, che dice restavano sugli scaffali e poi non per mesi poi non venivano venduti, e le persone, dice, le compravano questi cioccolatini solo per le grandi occasioni, per fare i regali. Io invece ho pensato a qualcosa che risollevasse il morale, che addolcisse ogni giorno la vita dei tedeschi. C'era il cioccolato, la ciliegia, il liquore che scaldava in quell'epoca che era fredda e con scarsi riscaldamenti. Qualcosa che avesse una carta invogliante, elegante, lussuosa, di un rosso fiammante, che desse l'idea di una piccola festa a un prezzo accessibile per tutti. Racconta poi Ferrero in questa intervista che all'inizio trova naturalmente moltissime resistenze, pochissimi pronti a sostenerlo in questa idea, ma poi trovai un uomo intelligente che si fece conquistare. La Valeria, torna di nuovo questa figura appunto del consumatore, della consumatrice, la Valeria tedesca aveva bisogno di essere confortata, di sentirsi bene ogni giorno, di potersi fare un piccolo regalo. Un passaggio per un punto che è sempre stato caratterizzante di Michele Ferrero, cioè la volontà di non andare alla quotazione in borsa, dice: ma sa perché ho potuto fare tutto questo, riferendosi appunto ai vari prodotti lanciati dalla sua azienda? Per il fatto di essere una famiglia e di non essere quotati in borsa. Questo ha permesso di crescere con serenità, di avere piani di lungo periodo, di saper aspettare, non farsi prendere dalla frenesia dei su e giù quotidiani. Allora, naturalmente, sono la posizione di Ferrero nei confronti della borsa era nota, è sempre stata nota, ma il riferimento forse che si può prendere quest'oggi è proprio alla capacità di fare piani di investimento a lungo termine anche su prodotti che magari potrebbero non dare all'inizio i risultati sperati, ma poi invece possono dare anche delle soddisfazioni, dei ritorni di mercato. Questo sulla Stampa questa mattina, appunto questa ampia intervista a Michele Ferrero, scomparso ieri. Passiamo ad altre segnalazioni su altri giornali. Vi ho parlato di una intervista pure a Mario Monti sul Corriere della Sera, così Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera dice: cominciamo dal Loden, dal famoso Loden di Mario Monti, addirittura di recente paragonato, insomma messo a confronto con il Loden del neo presidente della Repubblica Mattarella. Dice: l'ha pagata cara l'identificazione con l'Europa, gli dice Stella al senatore Monti, fu una scelta. E piuttosto che prendesse certe decisioni a troica, con la brutalità che si è vista in Grecia, così dice Monti, era meglio le prendessimo noi, con tutti i rischi di impopolarità. Parliamoci chiaro, la troica, quindi facciamo riferimento al Fondo Monetario Internazionale, la BCE, è una forma di neocolonialismo. L'astio contro la UE sarebbe stato incontenibile e io mi sono detto: tu passi e l'Europa resta. Insomma, fece da parafulmine, gli chiede Stella. Sì, l'Italia europea è sempre stata la mia vocazione, da opinionista, da professore, da commissario, ed è stato un complotto del destino. gli chiede ironicamente Stella, ma allora c'è stato un complotto veramente? Sì, dice, un complotto del destino. Io mi sono trovato lì, in quel momento, con il mio bagaglio europeo, i miei rapporti europei. Bene, era quasi fatale che mi chiamassero. Dice Brunetta, si legge in un altro punto dell'intervista, che lo spread sarebbe calato lo stesso. Qui addirittura ridacchia o sorride, viene da pensare il senatore Monti. La BCE nel 2011 comprò un sacco di titoli nostri, ma lo spread schizzò lo stesso da 120 a 545. Semmai, semmai avrei voluto fare di più sul lavoro. Il famoso Jobs Act di Renzi, gli chiese Stella, ecco, l'avremmo fatto noi. Questo nell'intervista a Mario Monti che trovate oggi sul Corriere della Sera. Poi naturalmente su tutti i giornali, anche sul Corriere della Sera, una mappa delle varie forze che sono presenti in Libia, delle varie tribù. Noi pensiamo a questi stati come degli stati molto coesi, ma così non è, invece ci sono più anime, più presenze, e questo appunto anche rintracciabile in una cartina che trovate oggi sul Corriere della Sera. Negli ultimi 30 secondi di questa mia rassegna stampa vi voglio segnalare oggi sulle pagine culturali del Sole 24 Ore, nell'inserto della domenica, come al solito, il memorandum, la rubrica del direttore Roberto Napoletano è dedicata a due persone che lavoravano qui a Radio 24 e che, come avete sentito in questi giorni, purtroppo ci hanno lasciato. Si tratta appunto di Fabrizio Guidi e di Rudy, che era appunto il Fabio Cantadori, uno dei tecnici che assisteva noi che facciamo questo lavoro ogni mattina qui per voi. Grazie, è il memorandum di Roberto Napoletano, oggi sul Sole 24 Ore. Grazie e buona domenica da Mauro Meazza.